Ciao! Ah! Sì! Sono io! Ah! Un detective molto particolare! Descubro tutti sobre tua madre! Che tua madre piace! Descubro la vita di tuo padre. Descubro la tua vita. Un detective molto particolare. Molto amuciato. Molto allopato. Padullo pippone. Descubro lo pistolotto di tuo bambino. Il tarzanello di tua madre. Ah, tutti la giocattina, tutti lo sfilato di tua famiglia. E la notte strellata. Particolare, molto particolare. Molto strellato, solo con mio istinto. Descubro tutti. Sì, sono il detective molto particolare parlando. Sono un detective molto particolare. Chi parla? Chi parla? Descubro la giocattina di tua santa madre. La giocattina della cazzo sicuati della colatina. La colatina del saputo. Non dimenticare. Non vuoi dimenticare nati. Vuoi mangiare tutto, mangiare tuo bambino, mangiare tua madre. Mangiare ho voluto tanto bene. Mangiare ho arruso. Mangiare ho cazzo e spontinare. Vuoi trombare e vangare tuo padre. Perché sei molto particolare. Molto particolare. Molto particolare. Il detective che parla. Io descubro tutti. Descubro tuo destino. Senza amore, senza gioia. Bello corpo di tua ragazza. Descubro tutti. Che impala. Sai per me, la ragazza, mio favorito peccato, descubro tuo favorito peccati, è peccato impuro. Tutti impuro e la via del peccato. Piacere, la mancanza di felicità. Si separò, si affrontarò. Io descopro, si separa o affrontala. Particolare. Quem parla? Sou o detetive particular.